Letture di Radio 24. I pacchi bomba indirizzati alla Merkel e a Berlusconi sono l'ultimo capitolo di una lunga serie di episodi eversivi che partono molto probabilmente dagli anarchici greci, spesso in contatto con quelli italiani. Quando possono, sparano, altrimenti cercano il colpo con lettere, bombe e gesti dimostrativi. Attentati organizzati da alcune organizzazioni di ispirazione anarchica, firmano le loro imprese con il nome di lotta rivoluzionaria e di cospirazione dei gruppi di fuoco. Non vanno sottovalutati perché hanno già ucciso. La vittima più famosa è stata Giorgio Vasilakis, assistente del ministro dell'Interno. Le due fazioni hanno raccolto l'eredità terroristica del misterioso 17 novembre, realtà eversiva che ha imperversato con omicidi e agguati fino alla vigilia delle Olimpiadi di Atene. Arrestati leader e soldati, si pensava che la partita con il terrorismo fosse chiusa. Invece, lotta rivoluzionaria e soprattutto gli anarco-insurrezionalisti hanno riacceso il fuoco sfruttando due elementi. Primo, il tradizionale bacino di ribellione nelle università. Secondo, la crisi economica che ha attanagliato la Grecia e le conseguenti misure di austerità. È facile in questi frangenti sfruttare la rabbia ed è altrettanto facile dirottarla, con effetti terribili, come i tre poveri impiegati morti nel rogo della loro banca attaccata con bottiglie Molotov. Il fenomeno ha molte connessioni con l'Italia. Gli ordigni sarebbero simili a quelli spediti nel 1999 contro due obiettivi nel nostro paese, la stazione dei carabinieri di Musocco e un'agenzia di viaggi. Altri punti di contatto sono emersi in aprile, con una bomba inviata per posta a una caserma dell'arma a Roma. L'artificiere che ha agito in Grecia come in Italia ha usato quasi sempre gli stessi ingredienti, polvere da mina con aggiunta di nitrato d'ammonio. Ad Atene non hanno escluso che gli anarchici greci possano aver ricevuto un aiuto dai complici italiani. Per gli investigatori la spettacolare offensiva è legata al processo contro Kostas Gournes, uno dei capi di lotta rivoluzionaria, e per le precarie condizioni di salute di Nikos Matsiotis, altra figura di spicco dell'organizzazione. Inviando le lettere a personalità europee e ambasciate, il gruppo fa un pericoloso salto di qualità. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Guido Olimpio La firma degli anarchici, i legami con l'Italia, dal Corriere della Sera del 3 novembre. Letture di Radio 24. Come dimostra l'elevato numero di cani e gatti abbandonati, forse non tutti quelli che acquistano animali domestici sono pronti ad accudirli, anche quando l'entusiasmo iniziale è ormai passato. Perché non limitarsi a noleggiarli per poco tempo, dunque? Ancora single? In ufficio spesso fino a dopo cena e per di più abitando in un condominio dove è proibito tenere animali? Fino a qualche anno fa, Junko Arai poteva solo sognare di avere un cane. Poi ha scoperto Puppy the World, uno dei negozi di Tokyo più in voga tra i 150 che consentono di noleggiare un animale. La location è perfetta, di fronte alla spiaggia di Odaiba. Junko arriva alla mattina, prenota un fido, dopo aver passato in rassegna le foto in bacheca, e torna poco prima del tramonto per fargli fare la passeggiatina. Costo 2.500 yen, 23 euro, per un'ora. Divertimento dipende dal cane, a volte è più lui che porta a spasso il temporaneo padrone. La petmania in Giappone, dove si contano più cani e gatti domestici che minori di 15 anni, è esplosa nell'ultimo decennio, producendo eccentrici fenomeni come l'agopuntura per i cani e i loculi per i cari estinti a quattro zampe. Ci sono però anche milioni di giapponesi che, per vari motivi, trovano più comoda e flessibile la compagnia di un animale per un periodo limitato. Sono così nati i negozi di cani a ore, così come i Neko Caffè, una quarantina solo nella capitale, dove si può sorseggiare una bibita circondati da felini ormai abituati a farsi vezzeggiare dai vari clienti. Le possibilità non si esauriscono qui. A Tokyo, il negozio Zoo Japan consente di noleggiare anche conigli, uccellini, tartarughe, scoiattoli e persino una scimmia. Una delle ragioni del fenomeno è la claustrofobica spaziatura dell'appartamento medio in cui vivono i giapponesi. Drogati di lavoro che vivono in conigliere, era stata la sprezzante definizione di un funzionario dell'Unione Europea a fine anni 70. Case minuscole per gli standard europei e che costano carissime. A Tokyo, 8 volte lo stipendio annuale medio, secondo un recente studio. Un alano alla Scooby-Doo è fuori discussione, ma anche un chihuahua può rappresentare un problema. E in sempre più condomini è una violazione del regolamento interno. Alcuni clienti sono spinti dalla solitudine. In una società dove molti trentenni si lamentano delle scarse opportunità di fare nuove conoscenze, c'è chi sta valutando l'acquisto di un cane e vuole mettersi alla prova, o chi invece ha appena perso il compagno fedele dopo 15 anni e ha paura di soffrire di nuovo. Nell'unico dog caffè di Tokyo, poco più di un soggiorno in una casetta di Otsuka, la proprietaria Akemi Iwabe spiega che alcuni clienti si fanno anche 2 ore e mezza di treno pur di giocare con i suoi cani nel fine settimana. Ci sono anche persone come Akiko Aniu, che ogni tanto si concede qualche ora nel suo cat caffè di fiducia, sebbene a casa tenga 6 gatti. Anche se hai del cibo in frigo, ogni tanto vai pure fuori a cena, o no? Spiega, quasi sorpresa che qualcuno possa trovare strana la sua abitudine. Che gli animali possano essere visti come graziosi giocattoli nel paese che ha creato Hello Kitty e ha lanciato il Tamagotchi in tutto il mondo non è un mistero. Non tutti però sono affascinati da questi recenti fenomeni, anzi piovono critiche. Denunce di maltrattamenti non sono ancora emerse, ma secondo diversi attivisti per i diritti degli animali, specialmente i cani possono essere frastornati dalla rotazione giornaliera dei padroni. Obiezioni che vengono sminuite dai gestori di questi negozi, di solito dei veri amanti degli animali e preoccupati più di tutti della salute psicoemotiva dei loro prodotti, nonché del loro valore. «Sa perché facciamo lasciare le borse all'entrata?» sorride la proprietaria del Carl Up Café vicino alla stazione di Nishikoyama, dove molti dei felini sono di razza. Una volta un cliente, zitto zitto, ha cercato di portarsi via nello zaino il mio gatto più pregiato. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Alessandro Ursic, Cuccioli a ore, dal numero 24 del mensile IL Intelligence in Lifestyle. Finalmente in Cina qualcuno parla di democrazia e libertà. È il primo ministro, ma viene subito censurato. Davvero una bella intervista quella che il premier cinese Wen Jiabao ha concesso il 3 ottobre scorso al giornalista Farid Zakaria per la CNN. Peccato che in Cina sia stata censurata. Proprio così. Mani invisibili hanno riservato al primo ministro lo stesso trattamento di solito destinato ai dissidenti. E il bello è che non era nemmeno la prima volta. Wen si era già visto censurare negli ultimi mesi, come in occasione del suo discorso di Shenzhen del 21 agosto, in cui aveva ricordato la necessità delle riforme. Ma cosa diceva di così scandaloso il premier? Che il desiderio e il bisogno di democrazia e libertà sono irresistibili nel popolo cinese e che bisogna battersi per le riforme politiche nonostante ci sia una certa opposizione all'interno del partito. L'agenzia di Stato Xinhua ha dato notizia dell'intervista, ma senza citare le osservazioni del premier, e lo stesso ha fatto il quotidiano The Beijing News. A rivelarlo è stata una lettera aperta all'Assemblea Nazionale del Popolo, scritta da un gruppo di 23 vecchi riformisti appartenenti al Partito Comunista, tra cui Li Rui, ex segretario personale del presidente Mao, e resa nota dal sito cinese Sina, presto censurato, ovviamente. Perché il Dipartimento Centrale della Propaganda, chiedeva la lettera, ci priva del diritto di sapere che cosa dice il nostro premier. Già, perché? Sono due le teorie più accreditate. La prima, la più ovvia, è che si è di fronte a uno scontro interno al regime, tra i conservatori, quelli che per intenderci hanno incarcerato l'ora premio Nobel Liu Xiaobo, e i progressisti, campo in cui questa occasione è finito anche Wen Jiabao. Per altri, i dirigenti cinesi usano un doppio linguaggio, uno per i discorsi in patria e uno per quelli all'estero. Wen, insomma, avrebbe raccontato alla CNN quello che gli occidentali volevano sentirsi dire. Poi c'è una terza interpretazione, espressa ironicamente su Twitter da un ricercatore dell'Università di Pechino. La censura di Wen, ha cinguettato il giovane Hu Yong, è il segno che davanti alla grande muraglia siamo proprio tutti uguali. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Daniele Castellani Perelli. Se si parla di democrazia, la Cina censura anche il primo ministro, da venerdì di Repubblica del 29 ottobre. Oggi si tende ad equiparare la diffamazione online a quella che avviene a mezzo stampa, ma è un metodo contestabile per almeno un paio di ragioni. Si sta svolgendo da mesi un importante dibattito su internet circa il bilanciamento tra tutela della reputazione e onorabilità da una parte e libertà di espressione dall'altra. Un punto di equilibrio instabile persino nei mezzi di comunicazione con cui abbiamo decenni, TV, radio, o secoli di esperienza, stampa. Persone sono state diffamate online con gravi effetti sulla loro vita personale o professionale e anche contenuti di privati cittadini sono stati oscurati o rimossi senza decisione di un giudice. La stampa è soggetta a regole dettagliatamente previste e i suoi limiti sono stabiliti dalla legge. Ad esempio per diffamazione, ingiuria, obbligo di rettifica. E i blog? E i siti di privati cittadini? Oggi si tende a estendere semplicisticamente gli obblighi della stampa ai nuovi media, un metodo contestabile almeno per due ragioni. La prima è che si estendono ai privati gli obblighi della stampa, ma non le garanzie. La seconda è che così facendo non si sfruttano le opportunità che le nuove tecnologie offrono. Supponiamo invece che le rettifiche debbano essere fatte senza alcuna rimozione o censura, ma con un nuovo articolo, con le stesse caratteristiche della notizia da rettificare e con l'inserimento in testa alla pagina dell'articolo diffamatorio delle parole «rettifica in base alla legge tal dei tali», con il testo esplicativo della rettifica. Un vantaggio diretto sarebbe che il messaggio diffamatorio verrà qualificato come tale. Chi fa una ricerca su Google non corre il rischio di trovarsi il contenuto diffamatorio senza vederne la rettifica. In più, con una semplice ricerca si potrebbe ottenere un elenco di tutte le rettifiche cui il blog o la testata online sono stati obbligati, consentendo al lettore di valutare l'attendibilità della fonte. E tutto ciò senza che alcun contenuto venga rimosso, quindi senza alcuna censura. Il tema è importante, ha a che fare con diritti fondamentali. La tecnologia determina una discontinuità che, se guardiamo con gli occhi rivolti al passato, pone solo problemi da inseguire. In questo caso, invece, ci offre la possibilità di fare un passo avanti alla ricerca di un nuovo equilibrio tra la libera espressione delle idee e la tutela della reputazione. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Stefano Quintarelli, Diffamazione, un'idea per i blog, dall'Espresso del 4 novembre.